piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La prima festa a cui sono andata, medici, avvocati, notai. Dei festini dove partecipavano magistrati, il segretario del vescovo, il cappellano militare dei provvisti, la miglior crema di Siena. Cocaina e diciottenni così come se niente fosse. Lui mi raccontava che a casa sua si verificavano festini. In una villa in cui c'è stata una festa. Ma te non c'hai paura che ci sti festini, non c'hai paura che... Maresciallo, io sono volpe. Io c'ho tutto registrato, c'ho filmini, c'ho tutto. Se mi succede qualcosa a me, qui salta Siena. Avete notato quanto ultimamente sia ricorrente nelle cronache il termine festino? Qualcosa che stride, un po' paradossale rispetto alla generale situazione in cui nemmeno si può ricordare quelle che sono le feste comandate. Non ci saranno le feste, ma ci sono i festini. Guardate che il termine festa può essere declinato in varie maniere. La festa in generale è il termine neutro, cioè la festa di compleanno, c'è la festa comandata. Poi subentra il vezzeggiativo casalingo pantofolaio, la festicciola. La festicciola è quella tristissima che si fa in casa con i parenti o fra colleghi, mettendo le tartine sulle scrivanie d'ufficio. Facciamo una festicciola, vabbè. Le festicciole forse le evitiamo tutte volentieri. Poi c'è il festino. Il festino è qualcosa di indicibile, di innominabile. Nessuno ti invita, andiamo a un festino. Ti dicono andiamo a una festa che poi è un festino. E la differenza fra festa e festino qual è? Beh, l'abbiamo capito, il festino ormai è una sua liturgia fissa. Le testimonianze delle persone, delle ragazze soprattutto che hanno partecipato ai festini di Terrazza Sentimento, nel centro di Milano, dove stava Alberto Genovese, ormai è diventata un racconto quotidiano, in particolare Giulia Napolitano, questa modella di 21 anni, che ha partecipato a un'ottantina di feste e festini fra Roma e Milano, e la racconta con dovizia di particolari, preti che facevano strisce di cocaina sul pube di ragazze, ammucchiate di tutti i tipi, gente che offre Giulia Napolitano, che si è esibita sotto lockdown in foto nude per le strade di Roma, ma si è talmente esposta e pubblicizzata nella sua caratteristica di particolare attrattiva callipigio che qualcuno, per avere il dominio temporaneo di quell'area, di quel punctum delle sue foto, ha offerto addirittura 15.000 euro. Mi hanno offerto 15.000 euro per il lato B. Poi c'è le vicende delle Iene. Le Iene hanno tirato fuori, soprattutto Antonino Monteleone e Marco Chipinti, un aspetto che era soltanto una vox populi legato alla morte molto discussa a Siena di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, della banca del Monte dei Paschi di Siena, appoggiando anche alle testimonianze, alle richieste della figlia della compagna di Davide Rossi, Carolina Orlandi, viene fuori lentamente un tessuto di festini che si svolgevano nelle campagne di Siena. Parla l'ultima testimonianza portata alle Iene, un carabiniere in pensione, l'ex comandante di una stazione, dopo che ha messo le mani su questi festini, anche lì c'era di tutto, poliziotti, magistrati, personaggi importanti, sempre con lo stesso sistema, capito? Grande ammucchiata, grande drogata, grande azzuffata. Poi a settembre venne fuori a Bologna questa storia di minorenni implicate in questo giro anche lì di festini di orge, Villa Inferno, un'abitazione a Pianoro dove anche lì c'era di tutto, diciassettenni, ragazzine, personaggi insospettabili, professionisti, anche festino. Poi se vogliamo entrare in una declinazione leggermente diversa, quella che è il festino viene giustificato non soltanto dal fine promiscuo, fine a se stesso, dell'uso della droga, ma anche da un aspetto mistico. Il dottore Gian Maria Guidi, un erborista di via Osoppo a Milano, che anche lì aveva tutta una sorta di signore e signorine, che chiamava le sue schiave, sulle quali lavorava, una sorta di controllo psicologico totale, ma alla fine anche quello era, grandi ammucchiate, grandi festini. La Villa degli Orrori era una sua dependance in provincia di Novara, dove anche lì facevano feste, balletti, con una, diciamo, venatura leggermente mistico New Age, però anche lì era la stessa cosa. 11 squadre mobili sono coinvolte nelle indagini su questa vicenda dei festini dell'erborista. Torino, Milano, Genova, Pavia, Alessandra, Asti, Biella, Vercelli, Verbania, Aosta. Beh, io oggi vorrei riportare il termine festino all'esperienza comune di gente normale. Ecco, voi avete mai sentito parlare di festini? Avete mai avuto testimonianze dirette di festini? Avete mai partecipato a festini? Se volete raccontarlo, pochi lo faranno, quasi nessuno. Poi piacerebbe sapere quanto questo termine, che entra nelle cronache come uso costante, con la stessa formula, negli anni 60 si parlava del caso Montesi, la famosa donna trovata morta sulla spiaggia di Capocotta, e anche lì si diceva di notabili democristiani, personaggi dello spettacolo, facessero festini, sempre droga e ammucchiate. Ecco, tutta questa roba che continua ininterrotta dagli anni del boom agli anni della depressione e del Covid, ecco, possè che non è passata mai attraverso l'esperienza di chi mi ascolta, anche come semplice racconto. 800 24 00 24, 30 secondi per darmi la vostra esperienza diretta o indiretta di un festino. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. Mi rendo conto che è difficile, mi rendo conto che nessuno di voi se la sentirà, e questo lo posso capire, dire ma una volta da giovane sono andato a un festino. Questa trasmissione è difficilmente ascoltata da giovani diciottenni o poco più che diciottenni, con l'aspirazione di fare le modelle, di entrare nel giro che conta, di diventare anche loro personaggi, opinioniste, e magari hanno una momentanea passione per la cocaina e quindi vanno a questi festini perché sanno che lì te la danno gratis e poi conosci persone importanti, e quindi potrebbe essere un'occasione. Quelle non chiameranno mai, magari la mamma, la zia, la nonna, il padre di qualcuna di queste potrebbe chiamare, magari potrebbe chiamare qualcuno anche attempato. Ci mi ricordo anch'io che nei fulgi di anni 80 c'erano tanti festini. Partecipavano ragionieri, geometri, impiegati del catasto. Cosa si faceva? Si andava nella tavernetta di uno di noi, si stappava il tavernello o lo stock 84 e si facevano cose con le nostre colleghe, amiche, signore di coscia generosa del condominio, non lo so, non ho idea. Io personalmente, avessi partecipato a un festino, ve lo racconterei, perché sono maggiorenne, non c'è niente di male, non faccio uso di sostanze stupefacenti perché non mi ha mai interessato. Mi sono preso non so quante ubriacature nella vita, ancora ogni tanto, se ho buona compagnia e buona materia a disposizione, mi piace farmi qualche bel cocktail, bermelo e stare allegro, ma questo è il massimo. Non riesco a capire come mai, quando si ha un potere d'acquisto elevato, si diventa benestanti o si può in qualche maniera prendersi qualche sfizio, lo sfizio si conclude alla fine nel fare il festino, cioè ammucchiarsi con altre persone, sentire odori di sudaticcio, di umori corporei, di vomito degli altri, vedere i gemiti altrui e stare al centro di una grande ammucchiata. Guardate che alla fine, non ce lo dimentichiamo, anche le cronache del Bunga Bunga, che comunque è una realtà accertata, anche se ci abbiamo riso, arzigogolato sopra, erano queste. Si portavano tante ragazze in un bel posto, si mangiava, si beveva e poi tutti assieme si faceva il festino. Che poi magari ad essere pistillo era soltanto il capo dei capi, ad essere corolla erano tutte le altre, e vabbè, questo fa parte del potere d'acquisto di chi organizzava quel festino. Pistillo e corolla l'ho usato perché è le parole simbolo di un festino, anche lì degli anni 60, di un famoso film in cui Tognazzi finiva per compiacere un suo collega d'ufficio in un festino, in questo caso era un festino gay, in cui c'erano i pistilli e le corolle. Luca, buongiorno, primo coraggioso. Spegni la radio, innanzitutto spegni la radio. E fai un bel respiro e comincia in 30 secondi a raccontare la tua esperienza di festino, di qualunque tipo sia. Vai Luca. Sì, grazie. Allora, noi più di 20 anni fa, con un gruppo di amici, pseudo politichetti di quartiere, niente di più, ci facevano questi tipi di festini, con diverse eccezioni, dalla professionista o professioniste, all'amica di amico che partecipava, Thierry, devo dire, tendenzialmente con già in mente cosa poteva succedere al festino, perché onestamente sappiamo tutti perché si facevano e le dinamiche, bene o male, come fossero, lo sapevano tutti. E questo mi fa capire che a volte c'è un po' di ipocrisia in tutti noi. Luca, mi sa che sei truppato per la prima volta il timer dei 30 secondi, se no parli per 2 minuti, ti faccio qualche domanda mentre il professor Chiappini lo ripristina, sì, perché 30 secondi erano diventati 3 minuti. Questo accadeva 20 anni fa, con un po' di amici vi organizzavate, il termine era festino? Il termine era sempre festino? Perché quello era il leitmotiv per questi incontri. Sì, però voi eravate dei giovani poveracci, non eravate dei ricchi miliardari, nel senso che organizzate... No, noi eravamo dei giovani benestanti, sorprendenti della media, ecco. Ma quanto vi costava ricchi a testa organizzare questo festino? Non era un festino... No, ma ai tempi dalle 500.000 lire, poi sono passati 500 euro, avevate un discreto potere. Cosa mettevate sul piatto per divertirvi? Roba da bere o anche altre sostanze? Ma tendenzialmente sul mangiare e bere era sempre la soluzione migliore. Sì, ma erano festini caserecci, diciamo. Entrare con l'altro, ma non, personalmente non è molto gradita a me. Diciamo una cosa un po' l'antica, un po' più casalinga, un po' più casalinga. Qualcuno si fumacchiava, si faceva qualche canna. E poi diciamo la materia, diciamo, del trastullo. Tu hai detto alcune signore, ma affittavate delle escort? Sì, tendenzialmente c'erano due tipi di festa. Il festino tradizionale con le protagoniste magari portate dal conoscente che sapevano già quello dovevano fare per fine per segno. Ma erano diciamo prezzolate o signore allegre che gli piaceva? No, che prezzolate. Erano d'accordo, erano consenzienti. D'accordo. Ma il rapporto qual era, diciamo? 4-1, 5-1, 6-1, per capire, perché alla fine il festino questo è. Ma no, tendenzialmente era un rapporto 1-2, cioè nel senso, se eravamo in una decina c'erano 4-5 ragazzi. Quindi 5 signore e 10 ragazzi. Poi il festino come avveniva? Tutti assieme o c'era, diciamo, un minimo di privacy, almeno in piccoli nuclei di 3 o 4? Lì è ad personam. Come ben sa Nicoletti, ognuno ha una visione e una percezione dell'atto, con inibizioni o meno inibizioni, quello più disinibito anche insieme, quello più vergognoso. Però Luca, la differenza rispetto alle cronache che leggiamo, voi eravate un gruppo di persone adulte, consenzienti, che si voleva divertire, erano fatti vostri, non c'era violenza, non costringevate nessuno. No, la violenza no, assolutamente no. Devo dire che spezzo una lancia non in favore di nessuno, nel senso, però chi va a questi festini sa già cosa succede, non facciamo gli ipocriti. Quindi, quando sento che sono tutte o tutti violentati mentalmente. Sì, però Luca, non voglio entrare adesso ho capito, se cominciamo a entrare nuovamente nel caso genovese apriamo una vicenda. Luca ha spiegato una formula di passaggio legata a una ventina di anni fa in cui il festino era una pratica. Io vengo dalla provincia, anch'io avevo notizie di questi. A Perugia chiamavano le batterie, che era una cosa simile a quello che fate. La batteria significava 5, 6, 7 giovani di media possibilità di acquisto, quindi che potevano mettere un po' di soldi, andarono nella casa di campagna di uno di loro, le contadine pulivano la casa del signorino, preparavano tutto, mettevano lì la torta al testo col prosciutto, mettevano il vino buono. Vennero poi due o tre signore che si sapeva nella provincia bene, una veniva chiamata la prosciuttaia, non mi ricordo per quale ragione, così, che avevano commercianti, donne single, che andavano lì e si divertivano e facevano quello che si viene chiamato gentilmente un partus, che a Perugia chiamano la batteria. Ci fermiamo un istante, poi continuiamo, sta diventando interessante. Melog. Ma oddio, si impasticavano tutti, vippavano tutti, scopavano tutti, cioè. 5 con 1? Vale? Si vede anche nei porno. C'era un prete che aveva messo in fila 3 ragazze nude sul letto e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina qui. E vabbè, il resto si può immaginare. Poi io chiedo, ma scusi, ma come mai lei, uomo di fede, viene qua? Perché comunque alla fine ognuno ha la loro fuga nel mondo dei peccatori. Scusa, cosa stai facendo? Stai pagando una ragazzina di 18 anni, non ti fai schifo? Stai spingendo anche lei comunque a drogarsi, perché io mi sono resa conto che se non ti droghi, il cliente non si sente alla pari con te, si sente inferiore, perché dice questa magari mi giudica, no? 800240024, stiamo tentando questa mattina di riportare in una dimensione di media banale normalità quello che viene considerato come delle eccezioni, dei momenti di estrema trasgressione, quando le cronache lambiscono episodi di violenza, di droga, di sopraffazione. A parlare era Giulia Napolitano, fanciulla callipigia che ha immortalato le sue fattezze architettoniche assieme agli eterni monumenti di Roma, il Colosseo, Piazza Venezia, non so bene adesso, non mi ricordo cosa, Castel Sant'Angelo, e ha partecipato a un'ottantina di festini del tipo di quelli di cui si parla nelle cronache. Ma noi non parliamo di cronaca, parliamo di episodi, di piccoli peccatori di provincia, di paese, che ogni tanto si mettono d'accordo tra un po' d'amici, chiamano qualche signora di quelle un pochino più allegre, non si fanno problemi, che vogliono anche loro giochicchiare, e in perfetta tranquillità fanno quello che oggi viene chiamato festino, come se fosse qualcosa che poi in televisione vedo le opinioniste, le signore non ridiscono, tutti fanno una faccia come cascare dalle nuvole, che è una cosa che mai si è sentita dire, e il mondo sprofonderà nell'inferno perché si fanno i festini. Quello che stiamo capendo oggi, fra un po' sentirete le telefonate, i festini si fanno alla grande, si sono sempre fatti. L'accezione additiva moderna, nuova, è la droga, è la tanta droga, è la gente che va lì non per divertirsi, non per fare una solenne ammucchiata che una volta nella vita magari uno si vuole togliere questo sfizio, ma per la droga diventa una cosa violenta, brutta, di sopraffazione e non più di divertimento. Simone, sei pronto? Sì, sono qua. Vai, 30 secondi, parti. Allora, io negli anni 90 però parliamo, avevo una ragazza, una ex ragazza adesso, che lavorava nelle discoteche insieme a suo papà, e in una discoteca, e la discoteca a un certo punto chiudeva e faceva entrare solamente alcuni conoscenti. E in questo ambito si creavano dei festini con alcune anche signorine, con anche personaggi un po' strani. Mi dai un po' il contesto, senza entrare negli specifici. Era una situazione di provincia o di grande città? Parma. Parma, la provincia godereccia. Allora, si chiudeva la discoteca, ti raccontava la tua fidanzatina, cioè mio papà, quando chiude la discoteca di famiglia, fa entrare un po' di ragazze e rappresentanti 20 anni fa, diciamo, della città, della buona borghesia, facevano il festino. Ma ti dava anche particolare, lei aveva assistito a questi festini? Sì, sì, perché noi partecipavamo. Ci andavate voi? Ah, beh, non è un sentito dire. Quindi papà faceva festini con la figlia pure dentro, che animava. Sì, lui non era il padrone, lui era un barman. Il padrone però partecipava. E il barman portava la figlia, che era la tua fidanzata? Sì, perché lavoravano tutte e due all'insieme all'interno della discoteca. Diciamo, era l'extra, il doppio lavoro era. A un certo punto si tirano giù le saracinesche e fuori le spade era il grido di guerra e cominciava il festino. Eh sì, cioè rimanevano solamente alcuni conoscenti proprio molto intimi e poi erano persone che tu vedevi durante il giorno normalmente spalmate nei corsi cittadini, nei caffè cittadini. Sì. Vabbè, perfetto. In questo caso è un'altra modalità. Nella discoteca, chiusa la discoteca, la gente faceva. La storia è sempre a quella: ammucchiate uno sull'altro, via dicendo. Questo no, ammucchiate proprio no. Però c'erano le. Come si chiamano? Le cubiste che erano molto, molto plasmate. Passavano ad altre, diciamo, forme geometriche, dal cubo passavano magari ad altre geometrie, molto chiaro, ma non mi interessano i particolari, non è la morbosità, voglio capire il modello e voglio capire la cosiddetta consuetudine di questa pratica. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Sei pronto? Ciao. Vai, sì, vai. Certo. Vai. Allora, voi parlate di 20 anni fa, ma fino all'anno scorso, a parte che in Italia è pieno, in Italia, ma una cosa che non ve rendete conto, due regole: mai droga e mai pagare, mai i soldi, sono le due regole per fare i festini e vengono sempre benissimo, perché la gente che ci va è tutta ben condiscendente di cosa fanno e dove vanno, anzi sono siti proprio dove si organizzano e si cercano proprio singoli o singole che ospitano questi festini. Aspetta Roberto, tu parli di un'altra modalità, una modalità diciamo familiare gestibile. Proprio ci sono gruppi su internet gratuiti dove tu entri. Ma tu lo sai perché l'hai visto o hai partecipato? Certo, io ho partecipato, certo. Quindi la regola è che non ci sia droga e non ci sia prostituzione. Non quindi gente. Non né droga né nessun tipo, a meno che uno non si fa qualcosa fuori, ma non si deve essere. Però lì droga, non si porta dentro, sì. Né prostituzione, è tutta una cosa. Ma scusa, che differenza c'è fra i club che organizzava Jessica Rizzo e il marito, dove andavano gli scambisti, questa esatto, roba qua? Quelli sono i club di scambisti. E questa è un'altra cosa. Sì, ci sono delle feste, dei gruppi che fanno feste proprio dei festini della trasmissione, dove affittano addirittura alberghi interi sulla riviera adriatica o sulla parte del Lazio. Alberghi interi per fare questa festa. E quanta gente giorni partecipa a questi festini? Dalle 200 alle 400 persone. Mazza, dico, c'è da uscire fuori con le vesciche nelle parti intime, perché 200 persone, se vuoi fare un assaggio con. Fuori, l'albergo viene chiuso, fuori dalla porta viene messo questo nickname che si ha sul sito, quindi se tu cerchi quella determinata persona che conosci sulla chat, fuori dalla porta c'è il cartello con quello scritto. Fammi un esempio di nickname, che ne so, spada di fuoco, che ne so, cos'è? Selvaggio, contrumante, lady sexy, cioè ognuno ha un suo account. Ma ci si mette la mascherina come nei film oppure vestiti normali? No, c'è anche la cena sociale alla sera, dura due o tre giorni questa cosa, ma faccio un esempio solamente, una città come Ancona sì, ha registrato 2500 coppie scambiste, 4000 singole e 11000 singoli. Vabbè, gli italiani si divertono, vedi, alla fine sotto sotto è questo. Ma adesso con il Covid queste cose sarà un po' più difficile, immagino. COVID, perché prima c'era il problema dell'AIDS, però si metteva il preservativo, scusate l'espressione. Vabbè, quello col Covid, è. Ovviamente hanno col fatto che non si può spostare. Con decenza parlando, dice il nostro amico avvocato, esatto. Certo. Adesso comunque ti dico, se state. Che ci si mette la mascherina adesso? No, non si evita, perché ovviamente fare quelle feste lì con la mascherina non si fa più, però ti dico, fino all'anno scorso ti posso garantire io che si facciano alla grande, perfetto, chiarissimo Roberto. Alberghi interi, d'altronde la bassa stagione in qualche maniera va compensata, che fanno l'inverno gli alberghi sulla riviera, festini a botte di 200 ammucchiatori. Silvia, buongiorno, pronta? Buongiorno, sì. Vai, 30 secondi. Allora, io tutta la mia, diciamo, seconda parte del liceo, dalla terza in avanti, ho sognato di partecipare a certe feste che avvenivano in una villona di fianco a casa mia e non ho mai potuto partecipare perché i miei genitori me lo impedivano e non volevano assolutamente. fino al giorno in cui una sera che c'è stata una festa incredibile e sono tutti finiti dai poliziotti per una mega retata, perché c'era droga fino a sopra i capelli in questa festa, insomma. Ecco, quindi tu io... però ci avevi fatto un po' la bocca, perché volevi andare a queste feste? Non avevi nemmeno il sentore. Era che... mio sogno. Diciamo che era il classico posto nel quale la città bene, no? Parliamo di una città di provincia della Lombardia, era il sogno di tutte le ragazze era partecipare, essere invitati a queste feste. Ecco, io ero una delle poche che magari veniva anche invitata, ma che non aveva il permesso dei genitori di andarci. Sì, ma tu sapevi veramente... che alla fine era un festino, o ci andavi pensando che era Cenerentola e trovavi il principe azzurro? Che cosa pensavi te? Allora, si che sapeva che c'era... Allora, io non sono mai stata interessata alla droga, non ho mai fumato, insomma, tante persone, tutte le persone della città bene, della quelli. Sì, ma tu avevi sentore, te lo dico con una metafora perugina, che lì ci fosse il panino con la porchetta, oppure andavi soltanto per... No, assolutamente no. Io veramente ero cappuccetto rosso e per fortuna i miei genitori erano più sgamati di me e quindi non ci ha mandato, perché sapevano bene di cosa si trattasse. Beh, Silvia si è salvata per il rotto della cuffia da una devastante esperienza di festino di provincia. Ci fermiamo. Oh, stanno arrivando mai tante telefonate. Evidentemente abbiamo toccato un punto nevralgico del nostro costume nazionale. A tra poco. Melog. Stavano i bodyguard per una questione di privacy, di sicurezza, ma la verità è che la gente non vuole che si sappia che loro magari la mattina fanno, non so, il dentista e hanno a che fare con ragazzine tipo di 18 anni e poi la stessa sera se ne vanno con le ragazzine di 18 anni a pagamento facendo uso di sostanze stupefacenti. Vai lì perché c'è l'avvocato che ti dà 1000 euro. Hai bisogno di pagarti l'università o magari vuoi soltanto l'ultima borsa uscita da 5000 euro? Tante ragazze facevano a gara per andare a queste feste private. No, non si pente nessuna. 800240024, vi dico la mia impressione a caldo, me la sto costruendo in questo momento, non avevo nessun tipo di pregiudizio, di idea sul festino italiano, avevo reminiscenze di racconti di festini perugini, ma roba degli anni 70, sai, in quella casa in campagna fanno le batterie, si additavano signore che avevano boutique nelle zone alte della città dicendo quella va a fare le batterie, cose del genere, fine, e poi erano le vanterie dei Miles Gloriosus di Corso Vannucci, che non sapeva mai quanto fosse vero, però mi pare che c'è una differenza sostanziale tra il racconto degli episodi di cronaca, dei crimini che vengono consumati e questo godereccio festinare italico. Non è che si raccattano ragazze con la scimmia sulla spalla che vanno lì per farsi la striscia di droga o hanno bisogno di 2000 euro per comprarsi la borsetta per fare le fighe e fingersi magari parioline anche se vengono dai quartieri periferici. No, è una cosa ben diversa, quelli sono episodi più legati alla necessità di avere un'immagine al di sopra delle proprie possibilità d'acquisto. L'Italia festinaiola si muove su altri parametri, su altri binari. Fabrizio, pronto? Ciao Nicoletti. Vai. Ti devo confermare, diciamo, questa tua visione. Infatti io penso che sia proprio così. E infatti negli ambienti dei festini tutti sono rimasti un po' sorpresi da questo tizio così che narcotizzava e drogava. Ti dico la mia esperienza, che è esattamente, cioè molto simile a quella degli altri. Cioè addirittura c'è proprio un regolamento in cui persone trovate con droga vengono cacciate istantaneamente. Quindi, ma nessuno si mette a un rischio così grosso, anche perché le partecipanti spesso sono molto giovani, tutte maggiorenne. Capito? Quindi tu parli di una modalità di festino in cui vanno persone soltanto per divertirsi, per avere l'esperienza, il divertimento di una sessualità sbrigliata, libera, con persone una cosa del genere. E non adesso... c'è passaggio di denaro, quindi chi viene lì non viene pagato per avere i soldi. No, assolutamente. Non c'è forzatura, sono persone che vanno solo per divertirsi, capito? Guarda, non c'è. Allora, gli unici casi del passaggio di denaro che ho visto sono gli organizzatori che quando affittano locali molto ampi chiaramente ti chiedono qualcosa, perché ti dico una bellissima. Beh, chiaro, l'affitto del locale si paga, cioè bere qualcosa berrete, certo, qualcosina da spizzicare ce l'avrete, certo, due tre mezzini, certo, che ne so. Certo, ma infatti in quei casi si paga, quando la cosa è molto piccola non si paga, quando è grande sì, perché... È molto piccola, che ne so, a casa mia invito tre amici e due amiche, facciamo il festino a casa mia, chiaro che le patatine, vabbè, i popcorn, la Coca-Cola la metto io, chiaro. Ma è troppo piccolo così, cioè minimo di 20 persone. Sì, 20 persone, in 50 metri quadri dove le metti? È diventa la carne Simmental, no, il festino? Vabbè, ho capito, comunque... Abbiamo fatto anche festini in 50 metri quadri con 20 persone. Beh, qua, mi dici il rapporto, sempre il rapporto numerico fra maschi e femmine? Guarda, normalmente 2-1 fra donne e uomini, due donne, un uomo. Ah, tutti, beh, allora festini, era una lussuria godereccia per il maschio, quindi ogni uomo aveva due donne a disposizione. Più o meno. Il contrario di quello che pensavo, io pensavo che ci fosse, che ne so, un 4-1 a favore del maschio, invece un 2-1, due signore per ogni ragazzo. Va bene, sì. Fabrizio, bocca al lupo, divertiti. Otello. Sì, pronto. Sei pronto? Pronto, vai, sì, pronto. Vai subito. Mi senti? Ok. Sì, sì, perfetto, allora, racconta. Io sono cresciuto praticamente dai 15 ai 30 anni facendo festini continuamente, perché mio padre aveva una villa a Bobbio, in provincia di Piacenza, una villa anni 70 meravigliosa, e quindi tutti i festini privati, chiaramente, tutti i miei amici o comunque i miei conoscenti, e giravano le tre cose fondamentali, cioè il sesso, la droga e il rock and roll. La droga chiaramente solo leggera, e invece l'alcol era alcol. E quindi, insomma, mi sono solo divertito, sono solo stato bene, e quindi io proprio sono molto favorevole a questi festini, cioè quelli dove non c'è violenza, dove non c'è prostituzione. Ma l'hai fatti solo da ragazzo questi festini? Otello, solo da ragazzo, adesso continui da adulto? No, adesso da adulto ormai non li faccio più, anche perché non ho più la casa, perché è una casa gigantesca, con quattro camere da letto, si dormiva un po' dappertutto, ho tirato su pizze di vomito dalla mia moquette, tutte le domeniche, certo, mattine quello... quando facevo le feste. Io l'ho detto prima, insomma, è la cosa che nessuno dice, l'odore di vomito e di secrezione pesante, guarda, altrui... Ho tirato su tanti di quei funghetti, perché era tutta moquette, una casa gigantesca, beh, non e è mia proprio, mamma diciamo... mi lasciava andare... Conviene il telo di nylon per terra quando fanno i festini, secondo me, ma perché no, la moquette era, non è proprio... ma la casa era troppo grossa, non potevo riempirla di nylon. Però ringrazio la mia famiglia, perché mia mamma mi lasciava andare a 15 anni con una quindicina, ventina di amici su a fare il weekend in treno e poi si tornava domenica sera. E chiaramente eravamo sempre liberi. E tua madre, secondo te, sapeva che lì si facevano i festini? No. Sì, mia mamma lo sapeva che andavo con quando amici. Mandava la cameriera a pulire la moquette, cioè, signore, quando ho vomitato dalla mattina, lei pensava... Dice, no, ho sempre pulito io, e poi ho preso su anche da mia mamma, perché una volta mi ha spaccato i letti, una volta mi hanno allagato il piano terra, che sono un tubo, insomma, l'ho fatto di cotte e di crude. Però mia mamma e mio papà mi hanno... Però guarda, Otello, mi sembra che la tua modalità sia un po' la festa da giovani studenti, un po' da film americano, una cosa del genere, non mi sembra proprio il festino in cui vanno le persone adulte, è una festa da ragazzi, che dove naturalmente ci si divertiva. Alessandro, vai, pronto, vai. Ciao. Vai, Alessandro. Io facevo il rappresentante per una multinazionale negli anni 90. Quando c'erano le convention, noi ci trovavamo in un albergo di Salso, albergo-ristorante di Salso, che aveva delle stanze dietro adibite al ristorante, con dei tavoli un po' più grossi per permettere all'entrenoise, chiamiamole così, di danzare, spogliarsi e giocare tra di loro sarebbe... sul tavolo. Vabbè, una roba da Fantozzi e Filini, capito? Sì. Sì, più o meno. Poi, se qualcuno aveva a disposizione i 100.000 lire di allora, poteva giocare lui con la signorina, altrimenti guardava e basta. Questa è una cosa tristissima, non c'è niente, è una cosa impiegatizia alla Fantozzi e Filini. Andavate all'ippopotamo, quattro poverette anziane con lo stock 84 sotto braccio. Comunque abbiamo dato una bella idea che l'Italia, tutto sommato, sa come divertirsi. Alla prossima.